12 dB da meno 12 a più 12, è abbastanza credibile come, come diciamo indicazione. Molte volte quando facevamo le prove dicevo guarda che devi sollevare quello, quello che aveva il controllo di ritorno, una possibilità, e riuscivamo a fare qualcosina di carino. Poi ti sto ascoltando in questo caso con un altro parlante esterno della Yaesu, l'SP901, quello un po' grossino, dai, un larga banda, non è niente di che, però diciamo meglio di sentirsi con l'altro parlante in dotazione. Di nuovo a te, tu cosa stai utilizzando, l'altro parlante esterno o quello dell'apparato? Sto utilizzando delle JBL, delle JBL 125 control, ne ho una per il Kenwood e una per l'Icom, mentre per il ricevitore ho una KK, un autoparlante KK. Adesso ti sto sentendo in stereo, perché l'ho preso e l'ho attaccato alla, diciamo, la doppia uscita, e ti sto ascoltando in stereo con due JBL 125 control. Sono autoparlanti al cono da 10 pollici, da 4 pollici, sono molto molto performanti perché sono autoparlanti da studio, mi segui? Sì, sì, sono a due vie, sono positivo. 10 cm più il tuo, no, sono da autoparlanti tipo scaffale come dimensione, o sbaglio? Sono molto, sì, sì, esatto, tipo scaffale, però sono autoparlanti da studio. No, sono due autoparlanti, no, questo è nato per le bande radioamatoriali, un autoparlante diciamo dedicato a quella gamma di frequenza, non ha una larghezza di risposta in frequenza larga come la tua, però è uno semplicissimo autoparlante monovia, diciamo, tipo classico altoparlante per apparecchietti, dico transistor e cose del genere, radio transistor, sarà di dimensioni, sarà 1,9 cm più o meno. Poi nel ricevitore invece utilizzo delle casse Philips a due vie piccoline, sempre da scaffale, che hanno un bellissimo suono, siamo naturalmente per quello che devi ascoltare, mica all'alta fredda non ascolto qua in radio, vado da altre parti, però ti posso dire non sono molto grandi ma hanno un bellissimo suono, sono accoppiate una sull'ICR 7000 e l'altra sul Rode Spazio, sul ricevitore quello professionale. Ogni radio c'è il suo altoparlante, colorina dedicata da 940, quello con i filtri. Poi c'ho l'SP, cos'è, quello piccolino, l'SP23, l'ho attaccato al coso, all'altro Yaesu. Ogni radio comunque c'ha il suo coso. Qua gli ho messo per comodità l'SP901 della Yaesu, nel 440. Avanti di nuovo a te. Sì, no, io proprio altoparlanti di Kenwood e quella roba lì non ne ho etienne, perché non ho la linea, le linee, dai, dice linee complete, piano piano me le farò, io sto iniziando robe, quindi non posso neanche diciamo avere tutto assieme, però dai, mi sto adeguando piano piano, passo dopo passo, cerco di fare le cose fatte bene, anche da piccolo SQL, però cerco di fare le cose diciamo con passione. Io mi sto accorgendo che la mia voce, perché a me adesso mi sta copiando anche a me, l'ho messo in linea AIR, cioè la mia voce pesca i 50 Hz, e vabbè 50 Hz forse perché sono vicino, però gli 80 li prende, gli 80 salgono a meno 27 dB. Considera che io robe ti posso dare un controllo di rumore in rosa, perché io ho un rumore in rosa in diciamo che è sempre attivo, anche diciamo un analizzatore di rumore in rosa, e ti posso dare proprio, la soglia di distorsione che dai tu alla tua voce. E cavolo, quindi stiamo già parlando di qualcosa di importante, dai, no, sono belle cose. Mi stai dicendo c'è il mixer, tu l'analizzatore ce l'hai sul mixer? Sì, è tutto l'analizzatore della Soundcraft, questo è tutto, ti sto controllando tramite tablet, non tramite mixer, cioè io ho il rack da una parte e ti sto controllando tramite tablet adesso. Niente, la tua voce in distorsione va, la vedo che sta, che è andata sui meno 20 dB ai 430 Hz, ha avuto un piccolo picchetto di persone, ma la sonda è abbastanza liscia. No, non è troppo alto, diciamo, a livello microfono, per qualcuno si lamenta, che è presente, sono oltre 50 centimetri, sto parlando in voce tranquilla, non sto alzando la voce, magari salta un po' la voce, magari c'è una leggera saturazione, comunque meglio così, dai, vuol dire che sta funzionando questo giocattolino. Assolutamente no, assolutamente no, ti ho messo la soglia della ratio in modo che ti taglia, ti ho messo la ratio in modo che taglia ma non sta entrando, ma non sta agendo a meno 19, che dovrebbe essere una soglia giusta, diciamo, per delle voci. No, non ti sta entrando, sei abbastanza lineare, ripeto, sali dai 270 e poi vai a finire ai 1700, 1800. Guarda, acceso io adesso il mio, prova a parlare per curiosità. E niente, stiamo facendo delle comparazioni vocali, e in questo momento mi sto modulando con un 450 in compagnia di Roberto che mi sta, diciamo, dando dei controlli radio con analizzatore di spettro. Allora, a livello microfonico è perfetto, sei giustissimo, non hai nessun picco di distorsione, l'analizzatore di spettro c'è una modulazione molto lineare, non ci sono né esaltazioni né attenuazioni, molto naturale come modulazione, va benissimo, per cui ti posso dire che va tutto bene da parte mia, almeno per la strumentazione che ho qua sotto gli occhi. Sì, no, Robe, anche io ti sento, guarda, ti ripeto, anche in questo passaggio qua ti ho copiato una linea, guarda, ti mando la foto dopo, aspetta che ti faccio quando voglio ti faccio la foto, ti faccio vedere la tua linea molto molto dritta, molto dritta. Secondo me la tua soglia microfonica è giusta, questa qua, anche perché è molto chiara, è perfetta e non vai a strappare, cioè la stiamo misurando a strumento e non abbiamo neanche, diciamo che abbiamo un buon orecchio, però stiamo andando con roba professionale. Assolutamente, no, ti sto guardando, veramente vedo, vabbè, stiamo parlando di apparecchi seri tutti e due, non stiamo parlando di baracchinetti da 4 su o soldi, la modulazione è veramente pulita è lineare, non ci sono picchi troppo esaltati, perché molte volte sparano troppi acuti, troppi bassi, la modulazione è naturale, naturalmente per quello, sempre confrontando col discorso della risposta della larghezza banda audio dell'apparato, diciamo, in trasmissione. Guarda, ti ho fatto un video, dopo te lo mando. Allora, la tua modulazione va da meno 100, da meno 100 a meno 75, con una bella linearità e curva, quindi io l'avevo lasciato così. E vabbè, tanto con 60 non posso fare niente, posso solo allontanarmi o avvicinarmi, al limite posso mettere un antisoffio magari per attenuargli un pochettino qualche acuto, ma mi sta dicendo che la voce, anzi, non è troppo squillante, va bene così allora. E un altro momento, con calma, se ci vogliamo divertire, proviamo la V908, che con quello fa le regolazioni, normalmente me le hanno sempre fatte a orecchio, però non è come voglio io, sono molto scrupoloso, abbastanza pignolo, e vorrei farlo con la radio nelle condizioni migliori, con quel microfono, con quella radio. Sì, problema è un problema, tu quando vuoi entrare, io anche la notte sono sempre disponibile a fare queste cose qua, tanto adesso prendo, me lo metto fisso, perché stasera ho deciso di montarlo qua, perché non uso quasi mai questo apparecchio, è solo roba per fare seratini così, ma roba, diciamo, fiamo barghe, non devo più farne, quindi non mi interessa neanche più avere, me lo metto qua in stazione, così lo uso tutti i giorni. Ha una bella linearità, anche Gianni del Perù, glielo stavo dicendo stasera, ha una bella linearità, niente, sì, va benissimo. Allora Gianni, molte volte le ho sempre fatta questa osservazione, certe volte trovo il giusto compromesso, dico perfetto, non toccare niente, il giorno dopo ne vengo un'altra radio e si sentono dei problemi. Infatti con una volta che tu hai trovato la radio ideale, tu mi dici sì, è bello provare e riprovare, ma io ho sempre la stessa radio da tanti anni, la uso e non tocco niente. Qualche volta puoi fare delle prove così, ma non più di tanto, perché una volta che hai trovato il giusto compromesso, io dico non devi toccare toccare niente. Questo c'ha il suo microfono, la sua radio, ed è questo. Per cui qualche volta è capitato di utilizzare la Dunis così per prova, l'MC85, l'MC50, però ho visto che la radio che c'è il microfono si addice di più a questa radio è l'MC60, per cui una volta trovato il giusto abbonamento, poi io sono di quelli che odio gli eco, che in città soprattutto non te ne vai nulla, molte volte c'è sempre questa specie di eco, questo riverbero, tra l'altro molte volte non sono neanche eco, che ti deteriorano, ti sporcano la modulazione, sono di quelli che bisogna sempre cercare di utilizzare la radio nel migliore dei modi, in modo che abbia l'emissione più pulita possibile, senza metterci niente sopra. Qualcuno mi critica questo discorso, però io la vedo così, forse perché esco da ambienti hi-fi, per cui cerco di avere sempre, ma anche quando avevo la radio privata, il mio punto di forza era curare la qualità audio di emissione, vedevo tante radio private che facevano schifo, però io cercavo sempre di avere il meglio del meglio, con le attrezzature naturalmente, nei limiti delle attrezzature non avevo grossi apparati di altissimo pregio, però con quel poco che avevo cercavo di trovare il giusto compromesso, e così qua in radio cerco di uscire nel migliore dei modi. Di nuovo a te Gavino, avanti. Sì, no, a me piace uscire, a me, ti devo dire la verità, a me, io sono molto perfettino, sono molto camionaro, perché a me per esempio piace l'Eco Colt, avevo l'apparato con l'Eco Colt quando dovevo fare, tra parentesi, diciamo casino, usavo, quando avevo voglia di divertirmi, usavo l'Eco Colt, ero abbastanza tamarro e facevo casino, però quando si utilizza un radio così mi piace essere molto lineare, una modulazione molto precisa, e dell'eco non me ne faccio niente. Io sono da un estremo all'altro, o sono troppo casinista o vado molto sul pulito. Niente, volevo provare, in pratica ho dei microfoni da altare e volevo fare una prova. Comprerò un MC60 o un qualcosa del genere, diciamo anche da battaglia, e farò una prova con quel microfono lì, perché è assolutamente una cosa da provare, sono microfoni fantastici. Ma MC60 ne stanno vendendo uno nuovo, 80 euro ed è un ottimo prezzo, un bel apparato, uno ne avevo potuto prendere tempo fa Claudio, un pochettino di più, però 80 euro non lo trovi così in quelle condizioni un MC60, posso dire sui Kenwood, il migliore abbinamento, io ce li ho tutti, a parte l'MC90 che non ce l'ho, però hanno fatto delle prove, ho preso l'85, mi hanno dato, pensavo andasse un po' meglio, però devo dire alla fine quello che va meglio è sempre l'MC60, poi avevo fatto delle prove non sul 440, su altri tipi di apparati, con il mixer, mettendo microfoni da studio, diversi microfoni, diciamo c'era divertirsi, direi. Naturalmente bisogna stare attenti ai rientri, perché è un po' più problematico il discorso dei rientri, perché c'hai dei preamplificatori, magari ti amplificano anche i disturbi esterni eccetera. Ok, tu hai la possibilità, ti puoi divertire molto più di me, e una cosa devo dire, qua in 27 con un microfono economico tipo cineseria andava meglio di un microfono HFG e di uno Shure, come tipo di emissione, mi diceva no, ti ascolto meglio, ed era un cinesino, per dire, ovviamente aveva risposta in frequenza magari che si adattava per questa banda qua di emissione rispetto a Mario, un microfono professionale che è molto più lineare e coso, però qualcuno, tra parentesi, c'è sempre da dire, quelli che ti ascoltano, 90% delle occasioni ti ascoltano col baracchino, ecco l'altoparlantino del baracchino, Mario, sì, ti sente bene, Mario, l'ascolti con un apparato serio, un altoparlante esterno, quello che ha detto che era bello, Mario, era una porcheria. Di nuovo a te, riprendi la vita. Sì, infatti, no, ma io ti posso dire una cosa, Roberto, ti devo chiedere una cortesia, ti sto arrivando con picchi positivi o sono fisso? Perché niente, poco fa abbiamo fatto una prova in FM con Gianni e non mi ri... check prova radio, sì, check, picchi positivi o picchi negativi, Roberto? Un pochino. Assolutamente positivi, infatti da 9,5 a 9,10, belli pieni picchi, assolutamente positivi. Ok, ok. No, perché io mi accorgo, diciamo, dall'assorbimento anche in alimentazione, quando mi va, per esempio, sale a 10, 11, da 10 agli 11, perché io gli do 7 ampere importante bianca, e poi i modulati devono arrivare anche a 12 ampere, quindi quando è così la radio sta funzionando alla grande. Per non avere ritorni, diciamo, picchi negativi di alimentazione in seguito. No, assolutamente no, perfettamente. E ti devo dire una cosa, se riesci a tenerla così a livello microfonico sei perfetto, no, qualcuno ma ti può dire no, solleva, perché poi c'è la maniera della forza, come si dice tante volte, di sollevare a combattimento, eccetera. È perfetta la radio, ti sto ascoltando, è impeccabile, non tocca niente a livello microfonico, se ti fidi dei miei controlli, poi se qualcuno ti dice qualcosa vedi tu. No, vabbè Roberto, era sempre così la radio, allora io con le mie C80 con questo microfono la uso così, mentre con il microfono originale la devo mettere a mezzogiorno. No, io sempre così la radio ce l'ho, io non sono di quelli che sta a toccare, a fare. Logicamente quando va in FM un qualcosina la devi alzare, perché tra M e l'FM mi ritrovo con l'LC proprio a minimo, lo switcher neanche si muove, quindi un po' devo aumentare. Però poi se io sono abbastanza pignolo, quindi col carrier devo cercare di riportare di nuovo l'alimentazione a quel punto lì, mi segui. Io vado molto sull'alimentazione, non sulla radio. Sì, assolutamente. Poi l'FM spara piena potenza a 100 watt, questi della Kenwood, giustamente come schiacci, commuti, deve abbassare la potenza, sennò ti dà 100 watt di colpo. Sì, infatti, io preferisco più andare a aumentare che a prendere a farti la testa. Ma io questa radio, io non gliel'ho mai tirato il collo, ho fatto prova in FM, basta sempre, massimo di portante, ti darà... è una quindicina, diciamo 15-18 watt. Guarda, io qua sto uscendo con 15 watt di portante bianca e 38 modulati. 15 watt di portante bianca e 38 modulati a picchi positivi. E verrai un rapporto anche a me, tu sei quasi 9-10, quei picchi arrivano a 9-10. Guarda un po'. Vabbè, tu vai da 9,15 a 9,20 qua da me, tu vai da 9,15 a 9,20. Guarda, questa radio ce l'ho diversi anni, e ne avevo avuto un paio di 4,40, poi avevo 140 eccetera. Questa qui era, quando me l'hanno data avevano fatto danno a una persona a colpi di mazzetta, l'avevano spaccato di spiedo, non so chi l'aveva fatto un dispetto in casa, non lo so. L'ho data in mano a un carissimo amico, era nuova, presente, quando l'ha vista dentro era proprio uno degli ultimi seriali, quando l'ho visto è rimasta a bocca aperta, dice così nuove dentro non ne avevo mai visto, e ha cambiato il display, ha cannabilizzato una di radio, il display, poi cos'è che mi aveva messo un tastino che aveva un potenziometro, non mi ricordo, e poi l'aveva cambiato dei condensatori, quelli, siccome questi 440 hanno qualche problemino sul condensatore, li ha sostituiti tutti di una scheda, facendo le corna, questa radio è un treno, sta sempre andando, non mi ha più dato problemi. No vabbè, 440 non aveva problemi, il 440 è un rimorchiatore, Roberto, è un rimorchiatore. Infatti vedi anche la differenza che c'è di segnale tra me e te, io ti arrivo molto più basso di come ne arrivi tu. Diciamo che il 450 l'ha parata appena più cesta, appena, è totalmente diverso, più elettronico, più coso. Il 440 è tutto meccanico ed è diverso anche come esce, vedi, non c'è paragone. Diciamo l'evoluzione del 450, l'evoluzione del 440, ultimo ha sparato anche quello lì, va benissimo, niente da dire. Hanno fatto dei miglioramenti, l'hanno ringiovanito, diciamo, magari non utilizzano magari la stessa componentistica, perché col progresso magari con un integrato fai quel lavoro che ti faceva una scheda intera, però è una grande radio anche il 450. Io faccio anche il 940, non so se lo conosci, quello vai e tocca, bravo, bellissima, la radio di vecchia generazione, però dello stile 440. 40, ma se lo senti come modulatore da paura. Cioè io quando attacco quello lì, appena dico ma che radio stai usando, quando vado in altre bande, perché c'è una modulazione da paura, così quando sento loro, gli altri, perché adesso con questi apparecchi di nuova generazione digitale è come che tu ascolti una radio equalizzata e non è naturale, bella, piacevole, tutto quanto, però è un'altra cosa ascoltare invece una radio a valvole, che c'è una voce più corposa, più naturale, così succede con queste radio di vecchia generazione. E 940 in banda laterale è spaventoso, magari in AM non è un granché, il 440 è molto meglio, 140 e 680 vanno molto meglio, però in banda laterale dà fastidio a tante radio, poi c'è un ricevettore da paura, paragonato a una radio moderna senza filtri non noto differenza. Ho fatto le prove con l'FT3000, che è una radio di nuova generazione, TSP, c'è un sacco di cose, se tolgo tutti i filtri di quello lì e lo lascio neutro e lo confronto a 940 non ho notato nessunissima differenza, anzi devo dire è meno fastidioso da ascoltare, perché TS2000 c'è un grande difetto con tutti quei sistemi di filtri, quando stai un po' di tempo attaccato alla radio in ricezione di segnali molto deboli, metti tutti i filtri, diventa un po' stancante, mentre il 940 anche se c'è un S1 rimane meno faticoso l'ascolto, e quello è un punto a favore, e mentre per il TS2000 è un difetto. 440 un po' rumorosa come radio, l'altro giorno ho fatto le prove infatti con segnali qua in 11 metri, quello di Uzzieri, segnali bassissimi, e 440 c'era tanto rumore sotto, il TS2000 riusciva a tirarlo meglio fuori, parliamo in 11 metri, poi altre cose, vabbè, non le ho fatte le prove. Riprendi, vabbè. Io sì, 940 lo conosco, a me piace anche molto il 940, mi piace il 950, l'SGX, quello è bello stesso, anche 9950, l'SGX, SGX, sì, non sto sbagliato, 940 è bello, 940 è bello. Stiamo vedendo un paio, lo vogliono 600 euro, 600, 650 mi sa, 650, e quella è una radio da prendere, quella è una radio da prendere, infatti io sto pensando o al 940 o al 950 l'SGX. Allora, il 940 io l'ho preso a un prezzaccio, questo qua se ne voleva disfare, prima ha sparato una cifra, io gli ho fatto la proposta, non lo vedo, poi alla fine mi ha accettato lui e me lo sono preso. Me la avevo sotto mano 950, per esempio 950 è l'evoluzione, è meglio del 940, c'ha un bellissimo ricevitore leggermente superiore al 950, a 940 sono abbastanza simili come radio, però tira fuori qualche volta, ce l'aveva un amico il 950, il modello X, quello diciamo l'ultima versione, l'ultima seriale, dai. E quello è una grandissima radio, un bellissimo modulatore, e poi alla fine l'ha venduto per 600 euro a un'altra persona, lasciamo perdere il discorso, poi alla fine mi ha detto che l'ha dato perché c'aveva dei problemi, ho detto vabbè ci crediamo, dai. Mentre io ho sotto mano quello che a me mi ha venduto il mio 940, che non è l'ultima serie, diciamo una via intermedia, c'ha sotto mano 940 ultimissime serie, quello che c'ha il frontalino più scuro, il mio è grigio tipo aviazione, grigio scuro, dai. Questo qua è quello quasi nero come coso, unico proprietario, perfetto, non ha un grafico eccetera, mi ha mandato tutte le foto, questo non è 800 euro, ma secondo me se si tratta si riesce a tirarlo anche meno, sono sicuro a 700 euro lo dà, però è nuovo fiammante, se lo vedi, e ti posso garantire, 940 è una grandissima radio, pesa 20 kg e una bestia, cavolo, c'ha un bel ricevitore e un bel modulatore, li prendi? Sì, vediamo un po', cosa, io sono di quelli però che se devo prendere prima devo riuscire a vendere, perché a me dei doppioni non me ne faccio niente, logicamente prendendo un 940 o un 950 usi venderei sia 450 che il 737 e lì come li venderei tutti e due, quindi farei tutto con una radio sia 27 che l'ascolto sui 40-80 metri, mi segui? Perché quella è una radio che se lo può permettere di fare. Io adesso con questi qua sto facendo, diciamo sto usando il 450 per la 27, che è anche una cosa un po' sprecata, e lì come per ascoltarmi un po' le bande radioamatoriali dell'HF, però però il 940, il 950, quello che hai detto tu, sì, l'SGX è quello lì che vorrei, anche con un bel DSP esterno non sarebbe male. No, no, la 950 è una grandissima radio, chi ce l'ha se lo tiene, come il 940, sono l'unico problema, se si sfascia, ogni tanto hanno questo problemino dei puntini, ripararli non sono tutti che si prendono la briga di metterla a posto, perché non si trova più niente di quella radio, finché va tutto bene funziona, perché sono radio che hanno 40 anni, però sono indistruttibili, hanno fatto lavorare al golfo quelle radio, tu le vedi nei film, c'erano, utilizzavano le 940 nel deserto, con temperature oltre i 50 gradi, sotto la tenda, ed erano a carri armati come hai detto tu, sono bellissime radio, ancora diciamo non sono queste generazioni nuove, tutte SMD super complicate, menu, questa è semplicissima, l'accordatore è ancora meccanico, magari quello può essere un limite, però ti posso dire, io sono pienamente soddisfatto, c'ha una ricezione spettacolare, paragonata ad apparati moderni, con sistemi DSP di evoluti, magari può avere qualcosina di meno, però senza quei sistemi, l'utilizzo di quei sistemi di eliminazione del rumore non ha niente da invidiare, e io ho fatto il confronto con l'FT3000, che è una radio nuova, diciamo, di nuovissima generazione, e ti posso garantire non ho visto grossissime differenze rispetto al TS2000, qualche differenza in più ce l'ha 940, parliamo senza manipolazioni, diciamo, con sistemi di soppressione di rumori, però ti posso dire, io sono pienamente soddisfatto, finché funziona una radio esageratamente valida, e chi ce l'ha, i grandi radioamatori, quelli di un certo livello, se la tengono bella conservata, e il 950 è il modello, il figlio del 940, per cui per certi versi è anche meglio. Avanti di nuovo. Ma io direi, guarda, io sono più sulla roba, sarò un po' antiquato, un po' coso, però io diciamo che noi probabilmente non abbiamo a che fare, quindi trovi differenze, però sulle radio, guarda, io vedo il 140, il 440, il 430, sono tutti apparecchi che vanno sempre, io li chiamo le classiche apparecchiature ignoranti, ma non perché è proprio ignorante, è un apparecchio tamarro, un apparecchio che va, tu quello schiacci, vedi come sta uscendo tutto adesso, non c'è, grazie a Dio non sgarra un colpo, sempre perfetto, sempre la radio è di quelle radio penetranti, al ritmo di casa, pam pam pam pam, è bella, bella, bella, mentre questo qua mi trovo di 450, mi accorgo, sì, è una radio bella, una radio valida, una radio è, però non è mai libri del 440 o del 140 in modulazione, del 430, vabbè, non andiamo a cercare sia il 940 o il 950, perché è tutto un altro tipo di apparecchiatura, però lo metto vicino ai sensibili, e secondo me in modulazione non ha niente a che vedere con il 440, il 440 è molto più superiore. Sì, diciamo, sono radio fatte per scopi diversi, quelli il 450 già è più dedicato per il cambio ambito radioamatoriale, il 440 e il 140 sono, anche se sono radio nate per l'utilizzo radioamatoriale, vanno molto bene in 27, e sono l'unica radio di qualunque altro gruppo di radio, di AESU, ICOM eccetera eccetera, nessuna di quelle, io avevo 757 GX2, l'ultimo del 757 l'ho dato via, assolutamente non mi piaceva in 27, in banda laterale, così, però una radio che a me non piaceva, rumorosa. Il 140 c'ha qualche difettuccio per quel cavolo di slider di coso, di sollevamento del microfono, della potenza, li hanno fatti troppo piccolini, per cui come lo si vede appena appena ti parte di subito di colpo il livello. Come ricevitore non è un granché, c'ha un ottimo modulatore, ma come ricevitore diciamo sufficientemente è sufficiente, niente di più. In 440 c'è un grande salto, perché li avevo tutti e due insieme in contemporanea, e c'è la differenza, si nota la differenza, come forse la noti la differenza leggermente il meglio in ricezione del 450 rispetto al 440, un pochino meglio va il 450, un pochettino più silenzioso, 680 è la stessa cosa del 140, il 430 ha un ottimo modulatore, qualcuno dice che è anche meglio del 440, spinge probabilmente di più, ma si equivalgono come radio, ricevitore forse un po' meglio del 440, ma siamo a livello strumentale, a livello acustico, diciamo, di ascolto, non è che ti noti grosse differenze. E sono le radio che qua i 27 non hanno equivalenti di nessun tipo, anche sentendo radio di qualche migliaio di euro, proprio quelle i 27 non fanno, sono nate per altri scopi, mentre qua stranamente la Kenwood è uno dei pochi marchi che ha fatto dei prodotti che vanno bene anche al 27. Ok, riprendi tu, 10, canale 10, 27, 075. Sì, positivo, positivo. Io sono convinto che, guarda, il più ignorante, il più, diciamo, in galetto, pitidoso, il più, quello che pensa di più, secondo me, in 27 è 4,40, il 140 e 4,30. 4,30 è lo stesso, 4,30 è lo stesso, è molto, molto bello, molto... Dai, sono radio molto, diciamo, radio crude che schicchiano, radio che schicchiano, sono frizzantine, sono frizzanti, i 27 fanno anche mezzo fastidio, sono belle, la Kenwood quando, diciamo, ha progettato quelle radio, secondo me è stata una cosa buona, che una radio che si è adatta su tutte le bande alla fine, anche perché, diciamoci la verità, anche in banda laterale non escono male, non sono malvagi in banda laterale, sicuramente gli ICOM, sì, vabbè, cioè è roba che prende, è stata fatta per usi diversi, però in ricezione io ti posso dire una cosa, che questo 737 che c'ho io, che è molto, che è un apparecchio, diciamo, non è come il 775 o il 738, al Kenwood, a questo 450 ricezione lo prende ed è molto più perfetto, questo qua è zitto, una pietra, questa radio qua è zitta, tu, lui prende e parla tranquillo, invece il Kenwood no, il Kenwood pesca tutto, di pesa a volte sotto guerra, visto? Vabbè, ci sono anni anche di tecnologia di differenza, però i modulatori che c'ha la Kenwood, io ti garantisco, tutti quanti, dalla ICOM, la IESO, ma anche di un certo pregio, apparati tipo l'FT9000, l'FT7008, in banda laterale Kenwood c'ha sempre qualcosina di meglio come modulatore, cioè tu ascolti, parliamo qualitativamente di ascolto, affaticamento d'ascolto, il Kenwood è unico, i modulatori che c'ha il Kenwood, tu magari come dicevi tu, il topo di gamma della ICOM è superiore, non so, con 990, vabbè, 990 costa 6.000 euro, una radio che ce l'ha poca gente, però parliamo di radio normale, e Kenwood, ICOM e IESO più o meno si equivalgono in ricezione, però il modulatore in modulazione è qualitativamente è molto migliore, in assoluto, io me ne accorgo quando attaccano le altre radio, quando sento un Kenwood, un 940, 930, un 950, si riconosce, c'è una modulazione più naturale, meno affaticante, poi senti magari un 7008 bellissima, piena, però è come che tu ascolti un impianto valvolare hi-fi confrontato la voce di un valvolare e la voce di un transistor, è bella anche il transistor, però non ti dà quella corposità e quella naturalezza che ti dà la valvola, è così il modulatore del Kenwood. Io infatti tutto quello che ho qua, a parte l'ICOM, no mi scusa, a parte lo IESO, sono tutto della Kenwood, ho 940, TS2000, 440, il 711 lo stesso della Kenwood, c'avevo il 701 che l'ho dato via, perché sono ottimi come modulatori, fanno più che bene. Di nuovo riprendi. Sì, d'accordo con te, sì, no, già hanno fatto roba, tu che sei appassionato alle radio antiche, vabbè, quando vado a Claudio, una radiolina ho portato la seguente faccia a Roberto, mi fece vedere che radio è, perché ce l'ho in garage, la sto pulendo, e vediamo, perché ho fatto la ricerca su Google della radio, allora si chiama, allora radio, non so se ce l'hai, è una Manox 49B5, 49 metri. Ma cos'è, una radio a transistor o una valvola? No, è una radio che sembra una sveglia. e la radio che sembra la sveglia, c'ha la portante, e i canali, e 42 fai 49 non la conosco, almeno non ce l'ho presente, quando vedo la cosa gliela do e te la faccio dare. Ah, sono una sveglia, ho detto ma è questa qua gli può piacere, Roberto, per la prima. Poi mi hanno dato due VHF e fanno da 0 a 999. Ma il servizio di dove sta parlando? Portatili. Da 0 a 999? Sì, da 1 a 999, sono di quei VHF antenino in gomma, portatili, lì ti mando le foto, con i numerini a rotella. Fai da 001 a 999. Ah, ho capito, sì, ne ho anche uno di quelli, la Sommercamp mi sembra, no, della CT International, quello che c'ho io, con le rotelline che ci sono, diciamo, i numeri analogici, dai. È positivo, tipo contatti di metri di macchina. Hai detto bene, ce n'è una, che cos'è, della CT International, è andato un amico radioamatore che ce l'aveva, non so chi sarà, forse degli anni 70 questo, con quelle antennine che erano in resina, lunghissime tra l'altro, che si avvitavano. A BNC, attacco BNC erano, no, questa qua c'ha l'antenina in gomma, questa ha l'antenina in gomma con i caricatori, le scatole originali, erano di un signore anziano che abitava vicino a Casinale, è morto e erano là, e c'era questa radio qua, l'antenna che ha sfili, questa dei 49 MHz, mentre questi VHF erano, sono VHF marini, e va da, diciamo, tu metti per esempio 001 e 001 l'altro riceve, poi vai 999, ma sono perfetti, qua facciamo 999 canali quelli interrogativo. Guarda, sinceramente non lo so, io quello che ho io, cioè impostati la frequenza, toglievi l'1 e gli altri numeri erano, per dire, facevi 45 e 156, per dire, ci scrivevi 560, non so quante cifre è quella roba lì. Tre cifre. Allora sicuramente è un VHF normale, civile, diciamo, radioamatoriale, togli l'1 e fai 444, 445, scrivi, cioè non hanno i decimali quelli apparecchi lì. Sì, esatto, quindi è per esempio 144, 145, 146, 147, 550, 880. Adesso dovrei vederla, ma mi immagino che sia così. Sì, ne ho due. Tutto avanti 99, cioè non sono le batterie. Adesso quando vado in qualche posto riprendo 8 batterie ricaricabili di quelle di minifilo e gli rimetto, perché quelli li potrei usare, quelli li posso usare, non mi interessa, tanto li uso magari quando stavo montando la copertura, queste cose qua che sono su a 12 metri mi porto la radio invece di la voce. Dopo mandami il tuo numero e ti mando la foto della stazione mia, dai, sempre, non dico miglioramento, sempre ogni tanto si mette qualcosa di nuovo. E io ti mando la mia, ma io ho tre cosette, io ho tre radio e un baracchino, non è che abbia questa grande cosa, però per me va bene, io la curo molto. Sembra che ho poca roba, però diciamo intanto l'antenna ha fatto bene con i cavi buoni, non con i PL buoni, HN, tutto messi e paoloni, dai, non ci vado, a me piace farle bene, magari piano piano, però una cosa fate finta. E quello è il lavoro migliore, è utile farne fretta e poi usare le cose scadenti e poi devi riprendere tutto da capo. No, io dalle antenne ho fatto un bel lavoro, almeno l'antenna parlavo quando c'avevo la matta, ma la stazione che ho adesso tu l'avevi 3 anni fa, perché quando ancora non eri amatore più o meno è come adesso, c'avevo già tutto a parte il coso, l'FT3000 e l'amplificatore, tutto il resto era più o meno uguale, ho messo i monitor, un paio di monitor, prima ce n'era soltanto uno e basta. Però in linea di base anche ho dovuto togliere qualche radio perché avevo altre stazioni in base e ne ho messo, ho tenuto solo uno di il Bacci, ho tenuto il Royce e le altre, anzi non sbaglio, cioè, ce ne sono altri tre di allora c'è il Bacci, l'Intec Multicom, che quella è la migliore radio 27 che ho, il migliore apparecchio, l'Ultimo Multicom 497, poi una, perché a me non piacciono i baracchini, poi c'è una 48 di lì, l'ho usato, la prima radio che mi hanno dato, piccolino, vicino, il nuovo nuovo, c'aveva una settimana di vita, l'ho usato qualche volta, perché io prima utilizzavo sempre il patch prima di avere questo che sto utilizzando adesso. E poi c'è il Ruiz, originale americano, quello lo devo far fuori perché tanto non lo sto usando, è nuovo fiammante, proprio nuovo, nuovo, nuovo. E poi c'ho altri giocattolini, c'ho uno strumento che pochi ce l'hanno, un bel radiogoniometro con la sua antenna che sarà spettacolare, però non l'ho collegata, è solo scenografico. Il radiogoniometro funziona, sì, però per farlo funzionare devi mettere la sua antenna, sono quattro dipoli verticali, diciamo, messi su 360 gradi, e con questo strumento c'è una bussola con tutti gli indicatori, ti dà la frequenza, la posizione di da dove sta arrivando quel segnale. È un apparecchio marino, lo utilizzavano per la radionavigazione, sono riuscito a prenderlo da un amico, e poi c'ho altri giocattolini per altre cose, dai, perché io, come professione, non professione, come passione, ho iniziato come ascoltatore SWL, mi divertivo a fare ascoltare un po' di tutto, dai. Riprendi tu, Gabriele. Come sono io, ascolto un po' di tutto e cerco di fare le cose il meglio possibile, nel mio piccolo, dai, facciamo un po' le cose fatte bene, ci vuole questo picco di modulazione. Ora, da 7, ora, ok. Scusa Roberto, ma stavo guardando questa cosa qua nell'alimentazione. Sì, la prossima, dai, io penso che comunque farò più avanti il passo del 9.40 o del 9.50, quello lo farò anche perché mi sto accorgendo che di due a tre non me ne faccio proprio niente, perché non me ne faccio niente. Vediamo un pochino se riesco a dare questo 737. Adesso un po' me lo godo perché è tornata nuova. Adesso è proprio nuova. Un po' me lo godo, magari fra un paio di mesi o prima dell'estate lo cercherò di venderlo e farò un'unica specie. Anche se questo 450 mi dispiace, ma niente di strano che riuscirò a vendere bene questo 737, aggiungendo qualcosa riuscirò a prendermi il 940 e mi tengo il 940 o il 950 o il 450, così ho la linea. Sì, no, 450 per una radio molto commerciabile, lo vendi tranquillamente, non c'è problema. Domanda informativa, a titolo informativo, cosa c'è di alimentatori? Che tipo di alimentatore? Di switching o quelli lineari, quelli a trasformatore? No, quelli a trasformatore. Guarda, ho un... Allora... 8 DG 120 che sto usando con questa radio qua, che è un 30 ampere. 8 DG 120 che è un 30 ampere, poi ho un Lafayette che uso con l'ICOM, non in trasmissione, ed è un PS 200F. Sempre a trasformatore, uno è 20 ampere e l'altro è 30, 28-30. Allora io il principale, che è una bizza, quello lì, infatti è una bomba, l'alimentatore è dalla CEPI, 60 ampere nominali, però nella 120 ne può dare, l'hanno senza ventole, senza niente, quell'apparecchio lì tira, può dare 120 ampere volendo, però non le hanno tirato il collo, lo lasciano a 60 ampere. Poi c'ho il PS, che è quello che utilizzo, questo lo utilizzo per le linee, diciamo, quelle grandi, le grosse, dai, per l'FT 3000, il 940, no, anzi il 940 c'è il suo alimentatore, le linee, diciamo, HF e VHF, lo utilizzo quello lì. Poi c'ho il PS 300 che è un 30 ampere continui, però questo c'ha la ventola, la crocetta della Fayette, quello lo dedico per i baracchini e altri utilizzi da cose, per altre cose, dai. Quello principale è quello che sempre lo per tenere attaccato 24 ore su 24, il CEP 60 ampere, ed è una bestiolina di apparecchio. Ho trovato un'occasione tanti anni fa, questo lo stava vendendo, appena l'ho visto l'ho preso al volo, perché hanno dei prezzi allucinanti, li vendono a prezzi da paura rispetto ad altri, però se tu li vedi a livello costruttivo sono i numeri uno, non c'è di meglio. Poi il forace, ci sia qualche prodotto americano, però parliamo di prodotti fatti in Italia. La CEP è il numero uno, fa solo alimentatori, non costruisce altro, fa sino a 150 amperi, fa gli alimentatori, fa cose per uso professionale, alimentatori di cose professionali, dai. Per quello sono sovradimensionati, loro per dire col transistor che tira fuori 60 amperi lo fanno lavorare sino a 30, in modo che non ci sia neanche problemi di riscaldamento eccetera eccetera, per cui la durata è uso 24H24, lo puoi tenere acceso. Quello della Lafayette, il PS30, quello lì diciamo se lo tieni un po' in funzione ogni tanto si accendono la ventola quando li tiri fuori più di 20 ampere, però lo utilizzo raramente, sono una fianco all'altro, soltanto eventualmente emergenza oppure per le linee piccoline, qualche baracchinetto, qualche apparato che ha necessità di 12 volt. Riprendi. Il CEP ce l'avevo anch'io, la tua, ce l'avevo dalla prima stazione che ho avuto nel 2016, era il CEP 60 ampere, l'avevo comprato a Porto Torres da signor Pini, dalla moglie, che era un radioamatore, ed era il CEP 60 ampere, era quello con diciamo tutte, aveva la carcassa bianca e il frontale nero con gli amperometri e queste cose qua, e me l'aveva venduto una cinquantina di euro. Qui Claudio Sparviero l'aveva visto, il CEP 60 ampere, ce l'avevo anche io, l'ho venduto in continente quando ho venduto diciamo lineare, avevo il Bobet Trotter, ho venduto lineare e alimentatore, tutte e due assieme. Sì, è quello che hai detto tu, pesa 20 kg quell'apparecchio lì. Cioè tu guardi i transistor, con la configurazione dei transistor, mi pare ne ha 6 di transistor se non sbaglio. Tra l'altro il mio è stato anche messo il trasformatore maggiorato, per cui ancora è stato migliorato quello lì. Avevo preso il potente, non mi ricordo quanto, ma se vedi i prezzi di mercato, il piccolino lo vendono intorno a 200 euro, 180 euro, quello il 30 ampere, 40 ampere. Questo non lo so quanto si trovi, perché chi ce l'ha se lo tiene, i radioamatori diciamo di un certo livello che utilizzano amplificatori e cose del genere, quelli che non hanno l'alimentazione a 220 utilizzano questi alimentatori che sono micidiali, sono una bestia. Io quelli switching li odio, a parte tanti problemi ti danno, anche se ci sono degli switching diciamo di pregio, però in radiofrequenza non vanno bene, magari vanno bene per alimentare un televisore e altre cose, elettrodomestici, ma non radiofrequenza. I migliori di tutti sono questi qui, se poi ne hai uno anche toroidale meglio ancora, come li utilizzano negli impianti hi-fi. Però questo trasformatore che c'ha dentro questo CEP è micidiale, poi sono robusti, silenziosi, mai avuto problemi di ronzio né di niente, posso garantire che questi apparecchi funzionano bene. Quello Lafayette diciamo una cosa un po' più economica, ma nuovo costa 200 euro, anche quello lì non scherza, il PS300, che poi lo fanno anche con l'indicatore digitale dell'amperaggio e del volt. Però tieni presente tutta questa roba qua, io poi la passo in un multimetro da laboratorio digitale che mi dà proprio l'indicazione ai centesimi di volt, mi rendo conto se è tutto a posto, perché gli strumenti molte volte non ti devi guidare assai, attaccato questa strumentazione, cioè il CEP arriva a questo multimetro da laboratorio digitale e mi dà direttamente la tensione effettiva, perché molte volte non te ne accorgi, lo sfiori, tocchi appena il potenziometro, tu sei convinto che c'hai 13 volt, io vado a 13,56, 13,60, non oltre, come tensione, tu magari lo sfiori appena e ti dà 14,5 e c'è il rischio di far danni. Di nuovo te riprendi, poi c'ho la stazione di controllo generale con l'analizzatore di rete dove mi dà i volt, in questo momento ci sono 233 volt, la notte un po' diminuiscono, se vai di giorno arrivi anche a 2,38 e l'amperaggio, il consumo, un display su una barra d'incol suo, ho fatto un quadro comando a tutto a portata ottica in modo che veda tutto. Di nuovo te capisci? Sì, positivo, no, quello lì ce l'ho anche io, però ho due gruppi di continuità che sono da 3 kW e 3 l'uno, due gruppi di continuità che sono 3 kW e 3 l'uno, vabbè uno lo uso per il mixer, l'altro lo uso per quando vado in serata. Qua non lo metto perché non mi ci sta, non so perché io, diciamo, queste tre radio ce l'ho in cameretta di mia figlia, ho cercato di fare cose più ordinate possibili. Quindi, però questi due alimentatori, tra i quali posso avere anche, ti dico una stupidaggine, dovrebbero essere intorno ai 120 ampere a 12 volt, mi dà, ha un trasformatore anche a 12 volt, un'uscita a 12 volt, che sono 120 ampere, quindi io volendo collegare qualche lineare occorrente da vendere a 12 volt, anzi 13,8, e quello è proprio stabilizzatissimo. E ne ho due, ha tutti i bocchettoni a 16 ampere, tutti i bocchettoni a 16 ampere industriali, poi anche i civili dietro, ha le vasche che sciuco femmina, è grande, è una cosa, diciamo, che uso molto in serata. Però lo mettere qua non va bene, perché dentro un fly case, poi ce ne ho due di quelli, ne ho due, sono magnetotermico, mi può dare se dovesse mancare la luce può dare 3 kW e 3 per circa dai 15 ai 18 minuti. Cavolo, complimenti. No, anche io sto cercando qualcosa, magari non così grosso, per avere l'autonomia, perché capita più di una volta che salta la corrente. In casa io ho solo 3 kW, però molte volte se accendi una stufa in più, un forno e cose, più di una volta mi sono trovato a piedi e non fa bene agli apparati saltare la corrente così, saltare. Ci stiamo sempre attenti, però può capitare. Molte volte, l'altro giorno non mi sono accorto, c'erano due stufe attaccate e pum, è saltata la corrente. Oh cacchio, meno male non ha fatto danni, perché bisogna stare molto attenti. Dove si trovano? Se ne trovano a prezzi ragionevoli di questi gruppi di continuità? Beh, questi qua vengono intorno, usati, li trovi anche a 2200 euro li trovi. Nuovo viene intorno ai 4000, però intorno ai 2200 euro lo trovi usato. Diciamo che è abbastanza pesante, roba seria, roba su carrello, nuovo, non è quella roba sta messa male, crogiata, è nuovo, alto 80, profondo 60, è largo 56, La marca, non me ne ricordo la marca, dopo domani la guardo e te lo fai, ti mando la foto. Sì, quello serve, però non posso tenerlo qua a casa, perché sarebbe una cosa troppo disordinata, quindi quello lo assorbo io, non me ne farei neanche niente. Quindi sì, è per la, diciamo, per la luce, ma se manca la corrente, però ho intenzione qua di prendere e staccare tutto dall'alimentazione e mettere due batterie da 100 ampere fuori, mandare all'alimentazione, fare una richiesta e mettere le batterie col caricatore sempre avviato. Lo so. No, ma adesso con questo fatto dei pannelli, sta aspettando un amico che lavora giù a Fiumessanto, stanno mettendo energia in rete con questo fatto dei pannelli solari, soprattutto la giornata di giorno quando c'è luce, ma arrivano qua appunto di 239 volt, e sono arrivate tranquillamente. Adesso la notte un po' di meno perché la corrente è messa con i pannelli spenti, adesso io ho 233,3 volt e non sono pochi, anziché avere 220, che è la tensione nominale di rete, però il problema è che stanno arrivando a frequenze sbagliate, perché non è a onda pura, c'è una onda modificata a questi inverter di questi impianti qua, per cui non gli arriva la tensione a 50 Hz, la frequenza come la rete normale, per cui ti arrivano un sacco di residui, di sporcizia, e soprattutto se sei vicino alla cabina come sono io, arrivano tensioni esorbitanti e non fanno bene agli impianti. Infatti volevo mettere uno stabilizzatore l'amplificatore per avere la tensione almeno intorno ai 220-225 volt, oppure l'ideale sarebbe un bel gruppo di continuità, non di quelle dimensioni lì perché ci vuole una tottonella per spostarlo, magari sui 500-600 watt effettivi di potenza, che magari si trovano a prezzi anche più ragionevoli. Tu stai parlando già di cose super professionali, lasciamo perdere, non è per lo scopo, per la passione che le posso fare io. Di nuovo a te. Vabbè, quali roba che avevo preso piano piano, eh. Anche io avevo preso usati quelli, avevo preso usati da un servizio che aveva, che stava vendendo, e quindi li ho comprati, li avevo presi, ma è roba che può sempre servire, roba che può sempre servire. Quelli non sono mai soldi spesi male, perché li rivendi da oggi a domani, cioè se io domani decido di venderlo, poi lo faccio fuori, ma quanto l'ho pagato, però al momento lo lasciamo fermi, intanto le fate quelli da quelli mi avrà a Carnevale, li uso già, quelli già da Carnevale escono. Va bene. Adesso io prendo, Roberto, vado un po' a nanna, perché oggi mi faccio dei lavoretti di tipo mobiliere, capito? Anche. E oggi ho passato una giornata infernale a portare giù da una camera da letto, una sala, e a ripiazzarla. Ho finito alle 3 stasera, alle 3:15. È stata una giornata un po' movimentata, perché ho portato giù un comò di quelli in legno. Il comò in sé non era pesante, è che quando l'hanno montato hanno messo la soglia, hanno avuto la bella idea di mettere il mastice, capito? Quindi non si staccava la soglia ed era un comò di 2 metri. Abbiamo dovuto scendere da un po' di piani, questo ieri mattina. Poi oggi la camera letto lasciamo perdere. Va bene. Vabbè, anche io adesso vado a riposarmi, anche me, non dico a livello di tu, di stanchezza, perché l'hai fatto sicuramente molto, però sono sveglio da presto, poi non ho riposato neanche dopo pranzo, perché sempre 10-15 minuti dopo pranzo li fa, sono uscito da presto, la mattina ero tutta la mattina impegnato, per cui anche io ho necessità di recuperare, anche se domani è festa, ci avremo una giornata più corta, però anche qua se provi a dormire, tenete sempre la solita orario, almeno il mio fisico è sempre così, ci dice domani ma è andata a mezzogiorno, domani, sì, c'è già sveglio. Ok, vabbè, ti saluto allora, Gabi, ci sentiamo, Mari, quando hai tempo mandami il tuo numero così lo memorizzo e ci abbiamo, come si chiama? Ci abbiamo tutti e due, quando c'è qualche novità, WhatsApp e coso, ci possiamo scambiare informazioni, Mari, che non vogliamo rendere pubbliche. Ti saluto, buonanotte, buona domenica per domani, e poi se coincide, quando capita, ben volentieri, è sempre un piacere. Canale 10, correti da parte mia. Ciao, e saluto anche eventuali amici in ascolto, SWL. Ciao. Sì, Sì, va bene, adesso, guarda, te lo mando adesso, ti mando un messaggio su WhatsApp, ti dico sono io, meglio, mi domani porterò un po' la bambina in pietra dei segni, e c'è questa roba del, diciamo, questa roba di gastronomia, queste cose qua, ci sono anche i gonfiabili, i truccabini, così rimane un po' in compagnia anche lì, e mi faccio la giornata un po' diversa, dai. Va bene, Roberto, dai, è sempre un piacere, sempre, dai, fare un bel corseo, ci sentiamo tutto alle cose, dai. Tutto alle prossime, Roberto. Buonanotte a tutti, buonanotte Roberto, buonanotte a tu agli ascolti, agli SVL, come me. Dai, ci sentiamo tutte le prossime, di nuovo, buona nottata.